calmo e da giuni sei bangu prasaccia. Pazzac, giugazzac, e visac, nane così visac. E poncar satenam, catapurt nirbo nirbe, a calmo e da giuni sei bangu prasaccia. God.